Quello che vi proponiamo oggi su Mix 24 è il racconto dell'11 settembre del 2001, il giorno del terribile attacco all'America. È il racconto di quegli istanti drammatici e di tensione, di come lo hanno vissuto minuto per minuto il presidente degli Stati Uniti di allora, George Bush, e il suo vicepresidente Dick Cheney e le forze armate degli Stati Uniti. Quel giorno sembra un giorno assolutamente qualunque, un martedì di settembre. Il presidente è in visita in Florida e la sua agenda prevede soltanto un incontro con una classe elementare. Poi il ritorno a Washington. Nessuno immagina che nel giro di pochi istanti l'America si troverà di fatto in uno stato di guerra. Sono le 8:49, mentre il personale militare impegnato nell'esercitazione quotidiana, nome in codice Vigilant Guardian, arriva una telefonata. A parlarcene è il sergente Jeremy Powell. Era di prima mattina. Eravamo nel mezzo dell'esercitazione. Fummo contattati dal centro di Boston. C'era un possibile dirottamento di un aereo di linea. All'inizio non capivo se facesse parte dell'esercitazione. Chiesi se era reale o se era un'esercitazione. Mi dissero: no, è reale. Abbiamo un vero dirottamento. Era tutto vero. Ero alla scrivania quando mi passarono la telefonata. Era la torre di controllo. Parlavano di un dirottamento. Era un 767 dell'American Airlines, il volo 11 da Boston alla California. Corremmo subito a prepararci. Avete sentito il pilota di un F-15 della difesa americana? Sono da poco passate le 8:40 di quell'11 settembre. I due piloti da caccia dell'aviazione americana, nomi in codice Duff e Nasty, si preparano a decollare immediatamente dalla base aerea di Otis nel Massachusetts. Tutta la zona nord-est degli Stati Uniti, un'area che va da New York a Washington, è sorvegliata soltanto da 4 caccia. Ma del resto nessuno in America ritiene possibile che le città statunitense possano essere colpite da un aereo. Infatti per il momento nessuno sa quello che sta per capitare. Le prime notizie parlano solo di un dirottamento. Salimmo sui caccia e rimanemmo in attesa dell'eventuale ordine di decollo immediato. In tempo di pace non si pensa che possa succedere qualcosa di grave. Era solo un sospetto dirottamento, nessuna conferma. Sono le 8:45. Il volo 11 dell'American Airlines si schianta contro la torre nord del World Trade Center. I due caccia F-15 sono a 153 miglia da New York. Al momento del decollo, i piloti non sanno che un aereo ha colpito le torri. Decollo effettuato, salgo di quota. Decollammo, salimmo di quota. Rotta per New York. Dovevamo arrivarci prima possibile. Passai al volo supersonico. Potevamo cominciare la discesa. Chiesi che mi comunicassero il punto del contatto visivo. Mi dissero: sull'aeroporto Kennedy. Passarono un paio di minuti, guardai in basso, ma eravamo troppo lontani per distinguere qualcosa. Sono le 9 del mattino dell'11 settembre, George Bush è alla scuola di Sarasota in Florida per l'incontro coi bambini. In quel momento il presidente degli Stati Uniti è già stato informato che un aereo ha colpito la torre nord del World Trade Center. Non ne fa parola con nessuno, ma anche lui, come il resto del mondo, fino a quel momento pensa si tratti solo di un tragico, drammatico incidente. Passano ancora 2 minuti e d'improvviso l'orrore di quello che sta capitando diventa definitivamente chiaro. Non è un incidente, non è un semplice dirottamento, ma un vero e proprio attacco al cuore degli Stati Uniti. Alle 9:02 un secondo aereo, il volo 175 della United Airlines, colpisce la Torre Sud. A parlarcene i piloti incaricati di sorvolare i cieli di Manhattan. Chiesi nuovamente le coordinate. In quel momento sentii che il secondo aereo aveva colpito le Torri Gemelle. Per me e per Nasty fu uno shock. Noi sapevamo che ce n'era uno solo di aereo dirottato. Eravamo a circa 70 miglia al momento del secondo impatto, a pochi minuti di volo. Per molto tempo mi sono chiesto che cosa sarebbe cambiato se fossimo decollati prima. Abbiamo rivissuto quel volo 1000 volte nella nostra mente. Non so come saremmo potuti andare più veloce. Sono le 9:20. Il presidente degli Stati Uniti dalla scuola in Florida, dove è in visita, ottiene una linea sicura per parlare con il suo vicepresidente Dick Cheney, che è a Washington. Anche in quella scuola, come in tutto il mondo, i televisori sono sintonizzati sulla CNN e sui principali notiziari che trasmettono in diretta da New York. Chi sta vicino al presidente lo sente mormorare: ormai siamo in guerra. Ma Bush ancora non sa che i terroristi hanno dirottato altri 2 aerei che stanno facendo rotta su Washington. Dalla base di Otis intanto decollano altri 2 caccia che hanno il compito di pattugliare i cieli nella zona nord-est degli Stati Uniti. Dan Heckman decolla dalla base di Langley in Virginia per difendere il settore nord-est del paese. A questo punto è certo che ci sono altri aerei dirottati. I caccia decollano con destinazione Washington, ma sono quasi a 200 miglia dalla capitale. Pochi istanti prima del decollo, la torre di controllo è informata che un terzo aereo, il volo 77 dell'American Airlines, potrebbe essere stato dirottato dopo il decollo da Washington. Mix 24. La storia. Potevamo imbarcare degli M7 a puntamento termico, missili Sidewinder e M7 Sparrow. L'armamento era completato dal cannoncino interno Vulcan da 20 mm. Avevamo un tempo di risposta molto rapido. Potevamo decollare nel giro di 4 o 5 minuti. Bentornati su Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi con Marina Milone è la storia del peggior attacco agli Stati Uniti nei tempi di Pearl Harbor. Attacco dell'11 settembre del 2001. I piloti armati della difesa americana, avete sentito, ricevono un segnale sul trasponder. Il codice indica un livello di emergenza da stato di guerra. Alle 9:30 il presidente Bush rilascia le prime dichiarazioni. Oggi abbiamo assistito ad una tragedia nazionale. 2 aerei si sono schiantati contro il World Trade Center. Tutto questo fa pensare ad un attacco terroristico contro il nostro paese. Ho ordinato che tutte le forze del governo federale si attivino per un'indagine che porti a identificare e scovare chi c'è dietro questo atto. Non cederemo mai al terrorismo. Sono passate da poco le 9:30. Sugli schermi radar del controllo aereo compare un punto non identificato, un aereo che vola sugli Stati Uniti e che ha disinserito il trasponder che serve a identificare tutti gli aerei in movimento. Nessuno sa quale sia questo aereo, l'unica cosa certa è che vola a bassa quota, alla velocità di oltre 800 km all'ora e la sua direzione è Washington. Qui alla Casa Bianca, agenti dei servizi segreti si sono precipitati nell'ufficio del vicepresidente dicendo: «Signore, deve seguirci immediatamente». Era Gawin Hewitt, corrispondente da Washington per la BBC. Prima che potesse rispondere, Cheney è stato portato fuori dal suo ufficio, quasi di peso, nei sotterranei della Casa Bianca, lungo un tunnel, poi in un bunker. Tra le persone accanto a Dick Cheney c'è sua moglie Linny. I due trascorrono insieme le ore dell'attacco all'America. In momenti così traumatici, noti cose cui normalmente non faresti caso. Sul tavolo c'erano dei biscotti e bottiglie d'acqua. Ricordo che erano confezionati. Li avevano messi lì per dare una parvenza di normalità, ma quella non era una situazione normale. Una volta al sicuro, il vicepresidente Cheney prende in mano la situazione. Dopo aver parlato con Bush, Cheney allerta le forze armate di tenersi pronte a fermare un aereo dirottato su Washington. Ce ne parlano proprio la moglie, Linny, e il pilota Dan Heckman, coinvolto nelle operazioni di difesa. Mio marito aveva parlato con il presidente. Avevano convenuto che se l'aereo avesse continuato ad avvicinarsi, avrebbe dovuto essere abbattuto. Fu uno dei momenti più terribili. In teoria era una cosa accettabile, sacrificare delle vite per salvarne altre. Doverla prendere seriamente in considerazione, però, era una scelta terribile. Ci dissero che qualsiasi aereo che arrivava a 30 miglia da Washington doveva essere abbattuto. Nel bunker, il ministro dei trasporti americano Norman Mineta viene informato che un velivolo sospetto si avvicina alla capitale. Il vicepresidente fu informato che c'era un aereo a circa 50 miglia. Contattai il direttore della Federal Aviation Administration e gli chiesi cosa avevano sui loro radar. Mi spiegò che c'era un aereo in avvicinamento, ma che il transponder era stato disinserito, perciò non potevano identificarlo. Ma sapevamo che stava arrivando a tutta velocità. La stessa persona richiamò il vicepresidente e gli disse: «Signore, l'aereo è a 30 miglia». Un giovane ufficiale disse: «Signore, se gli aerei si avvicinano oltre le 10 miglia, le disposizioni sono confermate?» Il vicepresidente annuì e disse: «Certo». Naturalmente, nel clima di confusione e di panico di quei minuti, molti allarmi si rivelano infondati, ma uno di questi invece rappresenta una minaccia concreta. È il volo 77 dell'American Airlines che sta puntando su Washington, sul Pentagono. Sono le 9.35 dell'11 settembre, ce ne parla il testimone oculare Mike Walter. Ho sentito il rombo del motore, ho aperto la finestra e ho guardato verso il cielo. Ho visto l'aereo abbassarsi, aveva le due A sulle fiancate. Era dell'American Airlines. Si è abbassato bruscamente e ha come accelerato. Boom, dritto contro il Pentagono. Ho visto le ali dell'aereo piegarsi all'indietro e accartocciarsi, come una fisarmonica. È penetrato nelle mura del Pentagono e c'è stata un'esplosione gigantesca. Un aereo è appena precipitato su un edificio del centro. Qualcuno entrò e disse: «Signor vicepresidente, c'è appena stata un'esplosione al Pentagono». Era il ministro dei trasporti Norman Mineta. Sono le 9.36. Il volo 77 dell'American Airlines con 64 persone a bordo si schianta sul Pentagono. I caccia decollati dalla base aerea di Langley sono a 105 miglia al momento dell'impatto, circa 12 minuti di volo. I piloti vedono il fumo che si leva dal quartier generale della difesa americana. Ora bisogna evacuare il Senato. A raccontarlo, l'allora presidente del Senato Dennis Hastert e responsabile della sicurezza Porter Goss. Pensavo, due aerei contro il World Trade Center, uno contro il Pentagono, e qui c'è questo bellissimo edificio in cima a una collina che è un simbolo di libertà e democrazia per tutto il mondo. Un bersaglio invitante per un altro aereo. Dissi al presidente che dovevamo andarcene subito. C'erano altri aerei e non sapevamo dove fossero diretti. Feci sospendere tutti i lavori della sessione e chiesi che fosse chiamato il cappellano. Avremmo detto tutti insieme una preghiera al primo piano prima di evacuare l'edificio. Chiesi al cappellano una preghiera breve. Eravamo sotto attacco. Alle 9.45 tutti i controllori di volo ricevono l'ordine di portarsi in condizioni di traffico aereo zero, cioè tutti i voli privati e commerciali nei cieli d'America devono atterrare. Sono più di 4.000. È un ordine senza precedenti. Agimmo con la massima tempestività. Tutti gli aerei in volo furono fatti atterrare. Alla fine ci ritrovammo con una decina di velivoli non identificati. Qui è il capitano che parla. Vi preghiamo di restare seduti. È segnalata una bomba a bordo. Stiamo tornando all'aeroporto per controlli. Vi preghiamo di restare calmi. La comunicazione che abbiamo appena sentito è stata intercettata dai centri di controllo del volo e proviene dal volo 93 degli United Airlines. l'aereo che avrebbe dovuto essere in viaggio per la California e invece sono passati da poco le 9.45, lo ricordo, e quel volo sta facendo rotta verso est, non verso ovest, cioè verso Washington. Sono le 9.47, vengono evacuati il Senato e tutti gli uffici governativi. Si diffonde la voce che è stato dirottato anche un quarto aereo e che tra una ventina di minuti potrebbe essere su Washington. Ce ne parla l'agente di polizia Dan Nichols. L'evacuazione fu immediata. Il panico era generale, non era possibile controllarlo, era il caos. Ricordo le scarpe. Per lasciare più in fretta gli edifici, molti si erano tolti le scarpe e le avevano gettate via. Soprattutto le donne. Per scappare si erano tolte le scarpe con i tacchi. Il mio compito è proteggere il Parlamento e chi ci lavora. Sapevo che nel giro di qualche minuto un aereo poteva colpirci in pieno e non potevo fare niente. Quel giorno ho temuto che i terroristi avrebbero distrutto anche il Congresso. I due caccia in esercitazione convergono a tutta velocità nel disperato tentativo di raggiungere il volo 93, ma quei caccia, come anche altri aerei in volo in quelle ore, non sono armati. Molti piloti erano stati costretti a decollare senza nessun tipo di armamento a bordo. Se avessero intercettato l'aereo, avrebbero dovuto fermarlo entrando in collisione. Non avevano armi. Era possibile che fosse chiesto loro di sacrificare la vita per impedire altri attacchi. Sono le 9.49, crolla la Torre Sud. Questi gli ordini che ricevono i piloti DAF e NASTI coinvolti nelle operazioni. Dopo qualche minuto ci dissero che dovevamo intercettare e abbattere un altro aereo dirottato. La torre di controllo di New York ci disse via radio: dovete abbattere qualsiasi aereo dirottato in avvicinamento alla città. Eravamo decollati in stato di pace e ora eravamo in guerra. Quello che vedevamo ci bastava a capire che della gente stava morendo. Dovevamo fare qualcosa. Se fosse stato necessario, avremmo obbedito all'ordine. Mix 24. La storia. Due uomini della sicurezza mi afferrarono e mi dissero: pare che un aereo stia puntando sul Senato. Percorremmo una serie di passaggi sotterranei e poi mi fecero salire su un'auto. Dovevano portarmi subito alla base di Andrews. Bentornati a Mix 24. Il presidente del Senato degli Stati Uniti, Dennis Hastert, che l'11 settembre del 2001, il giorno più tragico per l'America dalla Seconda Guerra Mondiale, viene messo in salvo dai servizi segreti. Sono le 9.50, la torre sud del World Trade Center è appena crollata e il presidente Bush, che era in visita a una scuola elementare della Florida, viene portato sull'Air Force One. Inizia l'operazione più difficile per la difesa americana. Ascoltiamo la corrispondente Ann Compton e il deputato Adam Patman. Conoscevo il cosiddetto scenario del giorno del giudizio. Il presidente deve essere portato al sicuro per mantenere il governo in caso di attacco nucleare. Ma io non avevo mai pensato che mi sarei ritrovata in una simile situazione sull'aereo presidenziale. Era spaventoso. The Ci portarono direttamente sulla pista. L'Air Force One era pronto al decollo. Il presidente fu fatto salire subito a bordo. Niente saluti o strette di mano. Il portellone principale venne chiuso. Noi della stampa, 13 in tutto, fummo spinti dagli agenti della sicurezza sulla scaletta posteriore. Continuavano a gridarci: muovetevi! Invece gli artificieri insistevano che dovevamo aprire le borse, tirare fuori computer e block notice. Volevano controllare se avevamo esplosivi. Tra le urla e le spinte, riuscimmo finalmente a salire a bordo. Il decollo fu quasi immediato. Fu una partenza indimenticabile. Un aereo di quelle dimensioni non è concepito per un decollo quasi verticale. Per raggiungere i 40.000 piedi a quella velocità. Una manovra decisamente fuori dal normale. Il primo problema era dove portare il presidente. E fu deciso che era meglio continuare a spostarsi. Mentre a Washington il Senato e tutti gli uffici governativi vengono evacuati, il presidente degli Stati Uniti e il suo seguito sono praticamente di fatto prigionieri sull'Air Force One. L'aereo presidenziale è costretto a restare in volo perché nessuna base aerea americana in quel momento può garantirne la sicurezza e l'incolumità. A vigilare sull'Air Force One in una situazione così terribile di caos e di pericolo è NORAD, il centro di comando della difesa aerea americano, che sta nel cuore di una montagna nel Colorado. Nel granito della montagna, a 600 metri di profondità, si nascondono due locali su due piani, concepiti per restare operativi anche in caso di attacco nucleare. Dalla guerra fredda, molti sistemi radar sono ancora puntati verso oceani e polo nord. Dunque, un sistema aereo vecchio, antiquato, pensato per la guerra fredda, che non c'è più, è assolutamente insufficiente per fronteggiare un nemico completamente diverso, come quello che si sta delineando. Il comando del NORAD, infatti, è in grado di controllare non più di 800 aerei dei 5 a 4.000 che in quel momento sono ancora in volo sugli Stati Uniti. Sono ormai quasi le 10 del mattino e da una parte all'altra dell'America arrivano continui allarmi, voci di nuovi possibili dirottamenti per colpire altri obiettivi. Ma per il NORAD la priorità naturalmente è una sola, il volo 001 dell'Air Force One, l'aereo del Presidente degli Stati Uniti. A parlarcene, il colonnello Bill Grover del Centro di Allerta Aerea e il generale Jim Hunter della base di Chine Mountain. Ricevevamo continue chiamate dall'FAA. Ogni volta dicevano: questo aereo è sospetto, potrebbe essere stato dirottato. Non sapevamo quanti altri ce ne fossero. 5, 6, 7, 8. Avevamo in linea il presidente, il vicepresidente e il segretario alla difesa. Il vicepresidente ci disse quale doveva essere la priorità. Dal momento che non sapevamo se ci fossero altri aerei dirottati, per prima cosa bisognava assicurare la massima protezione agli uffici del governo a Washington. Quella era la priorità numero uno, quella di cui dovevamo preoccuparci. Allo stesso tempo dovevamo seguire il volo 93 e tutti gli altri possibili dirottamenti in corso. In quel momento avevamo dei caccia in posizione su New York e Washington. Ci passarono un uomo che si identificò come responsabile dei servizi segreti. Ci disse che dovevamo proteggere la Casa Bianca. Stavamo sorvolando Washington, vedevamo il Pentagono che bruciava e via radio ci dicevano: proteggete la Casa Bianca. Era tutto tragicamente sbagliato. Ora i servizi segreti ci chiedevano aiuto e non potevamo tirarci indietro. Alla fine fu deciso che gli aerei di linea dirottati dovessero essere considerati come mezzi nemici. Ricordo le parole usate dalle persone all'altro capo della linea. Dobbiamo sacrificare delle vite in cielo per salvarne molte altre a terra. Era chiaro a tutti che si trattava di aerei di linea con civili innocenti a bordo, ma non potevamo permettere che si schiantassero in un centro abitato, come era successo con il World Trade Center. Era come una condanna a morte. Chi la esegue mette in atto una decisione di altri. Una sentenza emessa da un tribunale. Noi eravamo quelli che obbedivano agli ordini. Avete sentito il colonnello Robert Marr e il pilota maggiore Dan Heckman coinvolti nelle operazioni d'emergenza l'11 settembre. Sono le 10.02, il quarto aereo, il volo 93 della United Airlines, precipita in un'area disabitata della Pennsylvania. Il presidente chiede se è stato abbattuto da un caccia. Alcune ore dopo si saprà che sono stati passeggeri a tentare di fermare i dirottatori. Ma se il volo 93 avesse raggiunto Washington, sarebbe stato comunque intercettato. E a raccontarlo ancora la moglie del vicepresidente Dick Cheney, Lindy. Ve lo garantisco. Fu un sollievo per tutti quando ci confermarono che l'aereo non era stato abbattuto e che era invece precipitato in circostanze oscure. Mio marito disse, credo che su quell'aereo qualcuno si sia comportato da eroe. Quando l'aereo è precipitato tra le colline della Pennsylvania, era a circa 93-96 miglia dal centro di Washington, dove avevamo pronto un F-16. Se avesse proseguito sulla sua rotta, avremmo ordinato a quell'aereo e agli altri caccia di intercettarlo e deviarlo. E se non fosse stato possibile deviarlo dalla rotta verso Washington, avevamo ricevuto un ordine estremamente preciso. L'aereo andava abbattuto. Era il colonnello Robert Marr. La capitale degli Stati Uniti è una città nel panico. Per qualche ora si sparge la voce di una bomba esplosa nel Dipartimento di Stato. Tutti gli uffici governativi vengono evacuati. Ci hanno dato l'ordine di allontanarci dalla zona. È crollato in questo momento. La parte centrale della sezione E del Pentagono è crollata per i danni provocati dall'incendio e dall'impatto. Ci sono macerie ovunque. È crollato tutto. Sono passate da poco le 10:15 e gli Stati Uniti sono nel panico e nel caos. All'ora del comando della difesa aerea degli Stati Uniti, nel cuore delle montagne del Colorado, viene presa una decisione senza precedenti. Quella mattina abbiamo dato l'ordine di chiudere le porte corazzate. Dal 1966 non era mai accaduto. I servizi segreti ci avevano informato che poteva esserci un aereo decollato dal territorio americano diretto verso la base di Chine Mountain. Decidemmo di sigillare la base e chiudere le porte. Nessuno poteva entrare o uscire. Non sono mai stato in guerra, ma quella mattina la minaccia era reale. Ricevemmo una segnalazione. Un camion giallo stava risalendo verso la cima della montagna con 7 terroristi islamici a bordo. Con le porte corazzate chiuse, potevamo resistere a qualsiasi tipo di attacco. Non li avremmo nemmeno sentiti. Avevamo 800 metri di granito sopra la testa e porte da 25 tonnellate. Mix 24, la storia. Down on a hall. Okay. It's a huge hall. I decided to go take a look at the North Tower. Decisi di fare un passaggio sulla Torre Nord. Era pieno di fumo e fiamme. La situazione era terribile, ma l'impatto era avvenuto più in alto. Pensai che forse non sarebbe finita come l'altra, che potevamo salvare il resto del complesso. Mi avvicinai, mi posizionai proprio sulla verticale e guardai verso il basso. Volevo capire se si stava inclinando. Io e Nasty eravamo proprio sopra la Torre Nord e guardavamo verso il basso quando all'improvviso mi sono accorto che si allontanava. All'inizio non capivo cosa stesse succedendo. Solo quando ho visto la nuvola di polvere sollevarsi dal fondo, ho capito che era crollata su se stessa. È stato il momento più drammatico da quando faccio il pilota. Mio padre ha lavorato a un grattacielo a Chicago. Quando ero bambino mi raccontava che ci lavoravano 18.000 persone. Quando le torri sono venute giù ho pensato che potevano esserci fino a 30.000 morti. Quando l'ho vista crollare, ho pensato che eravamo in guerra. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia del giorno che dai cieli di New York al Colorado, dalla California a Washington, ha terrorizzato l'America intera l'11 settembre del 2001. Nel Nebraska il comando strategico delle forze armate controlla l'intero arsenale nucleare degli Stati Uniti. Anche qui il livello di allarme è al massimo. La base ospita il Comando Nazionale Aereo in caso di emergenza. Sono le forze aeree strategiche in caso di crisi nucleare. Il comando decide di far decollare gli aerei. Ce ne parla il direttore dell'intelligence, il generale Kelvin Koppok. Una delle principali funzioni di questi velivoli è garantire al presidente, al segretario, alla difesa e ai capi di stato maggiore la continuità del comando militare. Il modo migliore per farlo è averli in volo. Per questo abbiamo deciso di impiegarli. Eravamo diretti in una località segreta. Ricordo quando decollammo. Stavamo sorvolando la parte sud di Washington. Guardavo le strade, erano deserte, non si vedeva un'auto. Quando sorvolammo il fiume Potomac, mi guardai intorno. Non pensavo di diventare presidente del Senato e mai avrei potuto immaginare una situazione simile. Era Dennis Hastert, presidente del Senato americano. Per la prima volta Bush rende operativo, nel giorno del giudizio, l'equivalente di una polizza assicurativa della nazione. Assicurare la linea di successione alla presidenza e proteggere le massime autorità americane con tutti i mezzi. I leader del Congresso e i membri del gabinetto presidenziale vengono prelevati e condotti in rifugi sotterranei segreti. Le prime cariche dello Stato devono essere pronte a sostituire il presidente nel giro di poche ore, tra questi Dennis Hastert, presidente del Senato. In caso di successione, la mia carica è tra quelle che vengono immediatamente dopo il vicepresidente. Sapevamo che il presidente era sull'Air Force One e quindi era al sicuro. Anche il vicepresidente era in qualche rifugio segreto. Ma in un giorno come quello bisognava prepararsi a tutto. Nonostante tutti quei sistemi di comunicazione così sofisticati, noi eravamo isolati. Nessuno sapeva cosa stessero pensando o facendo gli altri. E poteva passarti per la mente di tutto. Anche che potevi succedere al presidente. Era tutto così incredibile. Sono passate poco più di 2 ore e mezza da quando il primo aereo si è schiantato sulla prima torre. Dall'Air Force One il presidente Bush, che è sostanzialmente ancora prigioniero sul suo stesso aereo, è in contatto permanente con il suo vicepresidente Dick Cheney. Bush vuole tornare assolutamente il prima possibile a Washington, ma gli apparati di sicurezza sono irremovibili. Finché ci sono aerei civili non identificati sugli Stati Uniti, è assolutamente escluso che il presidente possa tornare a Washington. Intanto in televisione è un continuo scorrere ossessivo delle immagini del crollo delle 2 torri di New York. Bush decide allora di convocare nell'ufficio privato del suo aereo presidenziale 2 parlamentari che viaggiano con lui, 2 testimoni. Uno di loro è Adam Putnam. Qualcuno venne a dirci di raggiungere il presidente. Stavamo vivendo un evento epocale nella storia americana e il presidente voleva parlarne con noi. E in quel momento la situazione degli aerei dirottati non era ancora chiara. Ricordo che ci disse che c'erano 6 aerei non ancora identificati in volo. La prima cosa che pensai era quali potevano essere i 6 possibili bersagli. Se accetti l'idea che ognuno di quei 6 aerei è in mano a dei dirottatori, come lo erano quelli di New York e Washington, la domanda è: chi sarà il prossimo? Alcuni caccia decollano per scortare l'aereo presidenziale identificato come possibile bersaglio. Ce ne parla Lynnie Cheney, la moglie del vicepresidente. Force One. In un'intercettazione telefonica era stata captata la seguente frase: l'angelo sta per cadere, ed era stata immediatamente riferita. Negli ambienti dei servizi segreti, l'angelo è il nome con cui si indica l'Air Force One. Chi aveva usato quel termine era ben informato. Penso che tutti in quel momento abbiamo provato una sensazione di panico. Ora sapevamo che la minaccia era diretta contro il presidente. Dopo l'intercettazione in cui compare il nome in codice, tutti a bordo dell'aereo si sentono un possibile bersaglio. I piloti dei caccia hanno l'ordine di difendere il presidente con qualsiasi mezzo. Primo scalo per l'aereo presidenziale, la base dei bombardieri B-52. Il presidente è portato via su una camionetta. L'incertezza è totale. Si procede a rifornire l'Air Force One, che potrebbe diventare un centro di comando mobile per un tempo imprecisato. Sono le 12:15. In meno di 3 ore i cieli d'America sono liberati da oltre 4.000 aerei civili, ma si temono ancora dirottamenti di voli internazionali. Il presidente è condotto in un bunker a circa 20 metri sottoterra. C'è ancora allarme su 6 voli internazionali. Durante la permanenza nella base di Offutt, i sospetti si riducono ad un solo aereo. Ce ne parla il generale Larry Arnold, primo pilota dell'Air Force One. Dalla compagnia di bandiera ricevemmo la conferma che l'aereo non era stato dirottato, aveva invertito la rotta ed era tornato a Madrid, dove era già atterrato, e avevano parlato con il pilota. Nel nostro spazio aereo non avevamo più velivoli, poteva ripartire e tornare a Washington. Sono quasi le 7 di sera di martedì 11 settembre. Dall'attacco alle torri sono passate circa 10 ore. I cieli degli Stati Uniti sembrano liberi dal pericolo, lo abbiamo sentito. George Bush può fare finalmente ritorno a Washington. All'aeroporto, per scortarlo fino alla Casa Bianca, lo attendono 6 elicotteri militari, mentre 300 caccia pattugliano il cielo. Ma per lui e per l'America niente sarà più come prima. È stata una giornata drammatica. Sono stato felice di essere tornato a Washington. Abbiamo sorvolato con l'elicottero il Pentagono e ho visto uno dei simboli della nostra forza in fiamme. Mi sono reso conto che eravamo di fronte ad una guerra nuova. Quello era il simbolo delle prove che attendevano il nostro paese. È stato un momento davvero sconvolgente. Mario Platero, dopo l'11 settembre, com'è cambiata la sicurezza nella difesa degli Stati Uniti? È peggiorata, devo dire che sotto un certo punto di vista, naturalmente, perché Obama ha annunciato una guerra contro l'ISIS, contro questo nuovo gruppo terroristico, contro questo califfato che controlla un territorio che è più grande della Gran Bretagna. Proprio in quei giorni tutto il mondo si è unito senza difficoltà intorno a Bush e al suo bisogno di colpire Bin Laden in Afghanistan, però poi rapidamente la strategia è cambiata e si è spostata verso la caccia a Saddam in Iraq. Si è disperso in questo modo un patrimonio di solidarietà intorno all'America, secondo lei? Beh, col senno di poi si è disperso sicuramente, perché il nation building non ha funzionato, cioè della costruzione di un paese attorno a un regime democratico non ha funzionato. Papa Giovanni Paolo II disse che con la cattura di Saddam sarebbe esploso l'Islam. È stato un facile profeta? Non lo so, ma la destabilizzazione oggi all'interno del mondo arabo, che poi questa sia accaduta per colpa della guerra in Iraq, io non lo so, lo diranno gli storici. Certamente molte cose che succedono oggi succedono perché ci fu quell'orrendo, vile attacco dell'11 settembre all'America, ci furono quelle migliaia di persone innocenti che morirono. Ma oggi la guerra all'ISIS è improvvisata o risponde a un pensiero strategico degli Stati Uniti che non è chiaro però in Europa? Ma dunque, Obama ha fatto una gaffe, prima ha detto non abbiamo una strategia contro l'ISIS e su questo è stato ovviamente molto attaccato. Dopodiché la strategia è emersa, io credo che Barack Obama non volesse parlarne in anticipo quando ha detto non abbiamo ancora una strategia, perché si riservava di farlo agli incontri della NATO, doveva arrivare alla NATO con delle cartucce nuove, importanti, che rivitalizzassero anche l'alleanza. Ecco, in qualche modo è riuscito a farlo. Io credo che in Europa si sappia benissimo che cosa si voglia fare. Ci sarà una coalizione di paesi, tra cui l'Italia. L'Italia ha detto che aderirà a questa coalizione, aderirà dando degli aiuti logistici, alcuni daranno aiuti logistici, di intelligence, altri forniranno delle armi. Ci saranno probabilmente, sicuramente, dei paesi arabi nella regione. Il segretario di Stato Kerry sta girando il Medio Oriente per reclutare paesi che nel loro stesso interesse devono sconfiggere questa forma di estremismo assurdo dell'ISIS, questi fanatici. Insomma, siamo in guerra. Siamo in guerra, è una guerra che durerà probabilmente 3 anni, questa è la stima, e che ha come obiettivo finale quello di distruggere l'ISIS. Grazie Mario Platero. Grazie a voi.